Radio 24 cerca il giornalista che c'è in te. Radio 24, unica emittente italiana del circuito Euronet, promuove Euronet Awards, il concorso riservato agli aspiranti giornalisti che non hanno ancora avuto esperienze professionali. Un'opportunità concreta destinata ai giovani fra i 18 e i 30 anni per trascorrere 3 giorni a Bruxelles e realizzare un servizio con cui concorrere alla competizione. Tutte le informazioni sul sito euronet.eu e su radio24.it.